ancora esiste, Sergio? insomma, no? No, Sergio, no, Ah, il il fratello, sì, il fratello. fratello, no? Noi non avevamo fatto cartelli, striscioni, manifesti come si fanno adesso, insomma, no? C'aveva un bastone con legato un cartello con la scritta Fora Ischei. Mi ricordo sempre, Fora Ischei, e una marea di gente dietro, insomma, no? Quindi potete immaginare qual è il nostro stato d'animo, insomma, di soddisfazione di vedere che finalmente, senza picchetti, senza opere di persuasione, sempre senza volantini e così via, insomma, si fosse maturata una coscienza tale da creare questa predisposizione alla lotta, da far partecipare i lavoratori alla lotta, insomma, no? E quindi questo è un fatto positivo, ma naturalmente poi, sai, gli avversari non è che stanno a guardare, insomma, no? Sono corsi ai ripari, divisioni sindacali e così via, insomma, no? Ma soprattutto quello che ci ha un po', tuttora, insomma, ci ha sbilanciato e ci sbilancia, insomma, no? E questa trasformazione grandiosa che è tuttora in corso, insomma, no? Della vita sociale, no? Delle attività produttive e così via, insomma, no? E poi parlerò dell'identità di classe, insomma, no? Ma per dire prima di tutto che non è che le cose rimangono sempre uguali, insomma, no? Non è che quando vengono trasformate i mezzi di produzione, vengono trasformati i rapporti di produzione e così via, insomma, no? Certamente le cose cambiano anche da un punto di vista della coscienza di classe, della identità di classe e così via, insomma, no? Perché certo non è che basta essere concentrati nel medesimo ambiente di lavoro per creare la coscienza di classe, insomma, bisogna che ci sia la contrapposizione, la lotta, insomma, e così via. E questo, cioè, la coscienza di classe non è che si viene iniettata, insomma, no? In base a queste esperienze si forma questa coscienza o identità, io la chiamo volentieri più coscienza, insomma, coscienza di classe, però devo riconoscere che le cose attualmente sono notevolmente cambiate, insomma, no? E quindi noi dobbiamo sforzarci di capire anche, no, quali sono gli estremi che non cambiano la sostanza del problema, insomma, no? Che ci sono gli sfruttati e gli sfruttatori, insomma, no? Però cambiano moltissimo il rapporto, insomma, no? E cambiano anche moltissimo i rapporti non so, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e così via, insomma, no? E quindi, se vogliamo veramente che ci sia un progresso da parte dei lavoratori, o della classe operaia, ripeto, ma classe operaia oggi è un termine molto ristretto, insomma, no? Perché gli sfruttati sono anche al di fuori, insomma, sono i lavoratori in genere, insomma, no? Ma i lavoratori in tutti i sensi, insomma, anche quello autonomo, anche quello intellettuale e così via, insomma, no? E quindi si allarga la cosa e non possiamo restringerla nell'ambito della coscienza di classe nel senso della classe operaia, insomma, no? Della classe operaia, no? Appunto perché sono cambiati tutti i termini della vita sociale, dei rapporti di produzione e delle forze produttive e così via, insomma, no? Ecco, quindi se noi cerchiamo di ricostruire un periodo storico, insomma, no? L'esperienza di quel periodo storico, analizzandolo in tutte le sue forme, insomma, quindi sviluppando queste esperienze che possono essere utili, però non in senso automatico, insomma, no? Di riportarle ai tempi nostri, insomma, no? Ai tempi di adesso, insomma, e perché le cose sono molto cambiate, insomma, quindi analizzando lo stato attuale, insomma, no, dei rapporti sociali, delle forze produttive, dei mezzi di produzione e così via, insomma, no, certo si può stabilire una strategia migliore, insomma, che mi pare che da questo punto di vista, da un punto di vista ideologico, insomma, in Italia siamo ancora abbastanza carenti. Ne abbiamo avuto nel passato dei grossi calibri, insomma, no, anche della ideologia, no? Che ci hanno illuminato, cioè, ma adesso, insomma, purtroppo siamo ancora un po', siamo carenti, insomma, da questo punto di vista. Ci siamo trascinati nella lotta politica, insomma, no? Trascinati anche dai problemi che sorgono ogni momento. E trascuriamo di tracciare una prospettiva da un punto di vista anche ideologico, da un punto di vista ideologico, che non può essere l'ideologia di prima, insomma, no? Deve essere un'ideologia che si ispiri a quella che è stata l'esperienza del passato, insomma, ma che dia anche delle prospettive per il futuro, insomma, no? Ecco, quindi se quest'opera di ricostruzione storica, insomma, no, vuole essere fatta, qualcuno o qualche ente, insomma, volesse ricostruire. Io credo che si trovano le testimonianze, non si trovano le testimonianze Non più valide, cartacea, insomma, non più no? documenti cartacei, Sì, però. e i documenti cartacei non si trovano più purtroppo, insomma, perché non sono stati conservati, ma forse si trova qualcosa, forse si trova qualcosa, forse a casa sua. Ecco. Ma forse anche perché devo dire che anche dopo le grandi lotte dopo il 68, insomma, no, in virtù anche del prestigio, lo statuto dei lavoratori e così via, i diritti, insomma, sono stati affermati. E allora anche gli organi di informazione, anche gli organi di informazione davano più, insomma, no, come tuttora danno risalto, e quindi delle ricerche possono essere fatte anche documentandosi attraverso questi organi di informazione. Ma se vogliamo andare un po' più indietro, ecco, la cosa diventa un po' più difficile, allora forse ci sarà bisogno della testimonianza dei protagonisti. Ecco, per il momento io mi fermerei qui, poi se qualcuno vuol domandare qualche cosa, volentieri posso aggiungere. Giorgio Tirini. Ma io sarò molto. Devo dire che la discussione, come si è impostata, mi piace. Mi piace anche per. Il nostro collega che parlava, andavo anch'io con la memoria, alcuni fatti che lui diceva, anche se non concordo politicamente, come è stata messa. No, però fatti sono cose che sono successe nella nostra città molti anni fa. Io ho avuto la fortuna di venire fuori da un papà, una famiglia di socialista, comunista, si è iscritto al PCI nell'immediato dopoguerra, ma durante la guerra era un po' un ritrovo di operai veneti che lavoravano alla zona industriale o in ferrovia, che alla sera si mettevano lì a ascoltare Radio Mosca, Radio Londra, e quindi era tutta una cosa, praticamente un coro clandestino, e fra questi c'era anche Don Daniele, che ogni tanto capitava, parlava con mio padre, via, no? Quindi ho avuto questa, cioè da ragazzino avevo 7-8 anni, ho incominciato a entrare in questo giro, e poi ho continuato e non ho ancora finito, no? Non mi trovo ancora, ho sempre qualche cosa da fare che mi appassiona, quindi vado avanti. Cosa mi ricordo io quando ero ragazzino del Partito Comunista Italiano o anche del Partito Socialista, del Partito d'Azione, cioè del movimento così della sinistra, e mi ricordo che a Bolzano c'erano molti iscritti, molta gente che proveniva da altre province e che fin tanto non sono stati contaminati, diciamo, dal germe del nazionalismo, c'era una forte sinistra, no? Una forte sinistra. C'erano qui Figuriamo, bisogna pensare una cosa, che la Lancia aveva più di 3.000 dipendenti, che oggi sono ridotti alcuni centinaia. Quindi la zona industriale di Bolzano, che era praticamente una zona impegnata al 100% per la guerra, tutte le fabbriche lavoravano per la guerra. Finita la guerra è incominciata la crisi. Quindi, ma anche prima, dove lavoravo io, cioè, perché poi ho cominciato a lavorare nel 47, dove lavoravo io hanno cominciato già prima, già nel 48-49 c'erano le prime ristrutturazioni, i licenziamenti, e quindi è cominciato, ne abbiamo visti di tutti i colori, ne abbiamo visti di tutti i colori. Marco citava prima alcuni casi, anch'io ne ho, Peruzzo Giulio, no? Licenziato dalla Lancia per questioni politiche, era sul ponte tutte le mattine e tutti quanti pensavano questo si butta giù. Poi per fortuna a Bolzano non era proprio una città così, anche il sindaco di allora, cioè si sono dati un po' da fare e hanno sistemato un po' di queste persone. No? No, mi sembra Pasquali. Pasquali, ma anche Zille prima forse. Comunque si è cercato un po' di sistemare, hanno trovato delle altre occupazioni. E quindi a questo punto, però era una cosa tremenda, era una cosa tremenda. La questione degli scioperi della zona industriale negli anni 50 era dura. Era dura anche perché c'era la divisione sindacale dopo il 48. E quindi ogni sciopero tu avevi un sindacato che diceva facciamo sciopero e quell'altro invece che tirava per portare dentro, fin tanto che non è iniziata l'azione unitaria da parte dei tre sindacati, le cose erano molto dure. E io volevo citare alcuni personaggi in senso positivo, intendiamoci, no? Che stavano assieme fuori dallo stabilimento anche da soli per anni. Scioperi, e questi continuavano a scioperare, magari erano gli unici dipendenti. Io mi ricordo Boldrin, Vaccari, poi adesso mi sfugge il nome, un toscano che era la Viberti, no? Cioè tutta questa gente che scioperava, comunisti iscritti al sindacato, gente che lavorava per il sindacato, impegnata, però c'era lo scontro che era durissimo, durissimo perché ti cacciavano via. E quindi io dico la verità, per molti anni e tuttora quando ho un momento così penso a questa gente, perché non ha avuto niente della vita, ha lavorato e basta. È Roncoletta, stesso Roncoletta, no? Feltrinelli, Senesi della Viberti, mi viene in mente adesso il nome, e poi altri operai. C'erano qui gli operai torinesi, diciamo, Pedrazzoli, sì. Poi dopo c'erano gli operai torinesi, perché praticamente da Torino hanno staccato operai specializzati, operatori, e li hanno trasferiti a Bolzano. Una colonia di torinesi abita ancora a Bolzano, no? Abita a Bolzano. Ho conosciuto anch'io quelli che... Scusa se ti interrompo, Giorgio, nelle case popolari di Via Mendola, angolo Via Mendola, Via Luca d'Aosta, case costruite in convenzione fra l'Arcia e quello che allora si chiamava IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, di convenzione con appartamenti riservati ai dipendenti Lancia. In una scala abitavano i tecnici della Lancia. Sì, però, e gli operai erano i tecnici erano piemontesi. No. C'è una divisione di provenienza. No, questi proprio abitavano in via Milano, al numero 8 di via Milano, c'era un complesso di case, anche quelle convenzionate, poi c'erano case convenzionate con i vari stabilimenti, anche le semirurali, no? Anche le semirurali. Comunque c'erano tutte queste colonie e lì ho conosciuto, ad esempio, il mitico operaio torinese, che noi qui non conoscevamo, no? Classe operaia, persone molto interessanti che hanno fatto scuola qui a Bolzano, poi sono rientrati, in buona parte sono rientrati a Torino, però hanno lasciato delle tracce, hanno lasciato delle tracce. Il partito qui, essendo una regione dove non c'erano esperienze, non c'era una tradizione, no? Non c'era una tradizione. Qui per parlare di tradizione si parlava del Partito Comunista d'Italia. Stiamo attenti alla differenza fra comunista italiano e Partito Comunista d'Italia negli anni 21-22, che hanno aderito appunto al Partito Comunista, e basta, poi è sparito tutto, no, non si è trovato niente. Si parlava così di un medico che abitava, se non mi ricordo il nome, che abitava oltre Isarco, che a quel tempo... Zanetti? No, guarda, non mi ricordo, so che era un medico di Oltrisarco, che era un po' il segretario della federazione, però praticamente non si è trovato, non credo che abbiano trovato traccia di questo, no? Abbiamo avuto anche noi come uno degli Flor, sì, poi sì, dopo... No, sì, no, Chenetti, sì, Chenetti, Chenetti, cioè tutta questa gente, però... Non, quindi i segretari, il gruppo dirigente di solito proveniva da altre città. Abbiamo avuto qui il Grisoni, abbiamo avuto qui gli Axetis, no? Un valoroso, oltre che militante, combattente, perché era un combattente a Trieste, da quelle parti. Cioè, Guastalli, Guastallone, quello, no? Giovanni Guastalli, sì. Cioè, abbiamo avuto tutto questo e il partito si è formato e è andato avanti. Però anch'io dico che ci sono state e ci sono delle difficoltà, per carità. Il discorso è che le lotte operaie, un partito che si ispira appunto ai lavoratori in genere, deve sempre fare delle proposte che assicurino il mangiare. Cioè, non si può quell'operaio... Dovrebbe essere così. No, dovrebbe. È così, perché a Bietica, fin tanto che hanno assicurato il pane, le cose sono andate avanti. Quando si è incominciato a mettere in discussione la pagnotta, è cominciata la crisi. No? Questo, terra, quando che lavoravo in fabbrica, c'era da organizzare uno sciopero, tu sciopero politico lo potevi fare una volta, ma dopo, il secondo, tu sai che io lavoravo alla Daimler, quanti scioperi abbiamo fatto, erano tutti strettamente collegati alla questione aziendale. Cioè, perché la gente ti segue se tu hai dire cosa ci... No. E a Bolzano siamo andati avanti così. Io ho lavorato per molti anni in questa zona, sempre lavorato in fabbrica, al partito, così, e le cose sono state molto dure, perché non c'erano neanche i soldi per mangiare. Abbiamo lavorato per anni con paghe da fame, e malgrado questo siamo andati avanti e sono arrivati gli anni. Poi dopo sono andato in pensione, ne ho viste anch'io, ma io do un giudizio positivo complessivamente. È chiaro che qualcosa che non va, c'è sempre stato, c'è dappertutto, diciamo, per esempio, c'è anche nelle migliori famiglie, no? Però complessivamente, guarda, io ho lavorato molti anni, E non sono stanco di lavorare, perché è una cosa che mi ha sempre appassionato, che mi piace fare, così via. Da diversi anni, adesso passo un po' al punto, la seconda parte che tu mi hai raccomandato di in modo particolare di sviluppare. Ecco, da alcuni anni, dall'84-85, siccome avevo incominciato giovanissimo a lavorare, appunto andare in pensione, però io non ho mai smesso di lavorare, non ho mai avuto un secondo stipendio, Vivo dalla mia pensione, però ho sempre continuato a fare qualche cosa. Tra questo qualche cosa, per anni mi sono impegnato, che è stata per me un'esperienza bellissima, forse la migliore esperienza della mia vita, è stata quella di cominciare a dire: ma qui nei quartieri periferici le cose non vanno bene, bisogna fare qualche cosa. E quindi mi sono sempre interessato anche un consiglio comunale, assieme ad altri, per carità, qui c'è Bertotti, il quale è stato capogruppo per molti anni, no? Mi sono particolarmente sempre interessato dei problemi dei quartieri, questione dei nuovi quartieri, come si andavano formando. E la cosa più grossa che ho fatto è stata quella della battaglia per la Mebo. No? Sì, quella lì. Avevamo praticamente Via Regia, che era un'autostrada, e ai fianchi abitava la gente che doveva respirare l'aria inquinata, e allora ho preso un po' in mano questa questione, perché ho capito, insomma, che qui dopo 20 anni che ci battavamo e per la statale 12 oltre Isarco e per la via Regia, le cose non cambiavano. E quindi ho cominciato a seguire questo filone, e ho avuto contatti con tutti i sindaci del circondario, con Merano, fatto riunioni, assemblee, blocchi stradali, ne abbiamo fatti di tutte. Però devo dire che nel giro di 5-6 anni siamo riusciti, abbiamo fatto. Ecco, questa è stata un po' un'esperienza che per me è una cosa che ho fatto e che mi fa piacere averla fatta. E non è mica finita, non è finita, perché noi a Bolzano, dico un po' il futuro e poi passo alle questioni delle semirurali, a Bolzano abbiamo un inquinamento che è tremendo. Siamo una conca, qui ci stiamo avvelenando, avveleniamo i nostri figli, i nostri nipoti, ci avveleniamo noi. Bisogna cominciare una grossa battaglia che durerà parecchi anni, forse qualche decennio. Però è chiaro che noi dovremmo cominciare a entrare nell'ordine di idee che l'autostrada deve essere spostata da Bolzano. Marco aveva ragione, me lo diceva 25-30 anni fa, mi ricordo. No? Noi non possiamo tenerci... ormai questo, come si dice, questa strada ha svolto il suo compito, adesso tecnicamente è possibile, occorre un denaro. Quindi ho già annunciato al sindaco che nei prossimi mesi incomincerò a darmi da fare per mettere insieme un qualche cosa, per incominciare, che poi dopo la terminerà qualcun altro, perché gli anni passano per tutti. Su un'altra questione invece, ma io sono nato, praticamente sono venuto su da Vicenza che avevo 4 anni e sono andato a abitare alle semirurali. Alle semirurali voi tutti sapete che era un po' il quartiere, un ghetto diciamo, oggi lo chiamerebbero un ghetto, perché è stato fatto questo quartiere, è stato messo lì in mezzo alla campagna, non avevamo servizi, non avevamo scuole, i nostri genitori per andare al lavoro i primi anni dalle semirurali dovevano andare al Ponte Loreto, e poi dopo dovevano tornare giù e andare in zona industriale, quindi perché non c'erano i ponti, non c'era né Ponte Resia e non c'era Ponte Roma. Quindi mio anno, i primi anni, no, chi ha incominciato a lavorare in zona negli anni 35-36 era questa la vita che doveva fare, e in bicicletta, no, pedalare, no. Mi hanno detto, ma io non me lo ricordo, che qualcuno aveva fatto anche una passerella sull'Isarco, mi hanno raccontato delle persone, sì sì, io non mi ricordo di questo, no. Ma me l'ha raccontato qualche mese fa, no? Che c'era addirittura questa passerella fatta dalla gente per attraversare l'Isarco e andare a lavorare. Ma non è tanto questo, è la questione di questo quartiere costruito lì, senza la scuola, non si era programmati i servizi, non c'era niente. La prima scuola che hanno fatto soltanto 3 anni dopo, nel 42, è crollata, perché hanno cominciato col dire facciamo una scuola a un piano. Poi, ma a dire la verità, 6 classi sono poche, qui ci sono mille, facciamo un altro piano. Poi, accidenti, ma qui manca la scuola materna. Allora, però facciamo un altro piano. E sono andati su ancora, no? Era in agosto, una bella mattina, verso mezzogiorno, è crollato tutto, no? Crollato tutto perché continuavano. Molto probabilmente avrebbero fatto anche il quarto piano. Questo per dire che dopo aver fatto un quartiere, si sono dimenticati di fare quei servizi indispensabili. Che era generoso, anche ti dava un piano, l'altro piano. Vabbè, e le famose scolette delle semirurali, no? Le famose scolette delle semirurali, che poi noi chiamavamo la scoletta, no? Ecco, quindi in quegli anni le cose erano così. Io sono stato invitato un giorno in parrocchia a vedere un documentario sulle semirurali. Ho visto questo documentario, poi il noto provocatore, un giornalista, dico in senso buono, Vincenti, si è avvicinato e mi fa, allora tu che abitavi a Semirurali, cosa ne dici? Ma dico, grazie a chi ha fatto questo documentario, che sarebbe Ennio Marcelli, con la RAI di Bolzano, che ha fatto il libro, il documentario e così via, ci sono alcune cose che non vanno, che, no? Però dico, grazie perché qualcuno si è dato da fare. E allora lì, fra una parola e l'altra, ma perché non fai tu qualcosa? Allora vabbè, dico, lo comincerò a fare anch'io. No? E ho organizzato la prima mostra sulle semirurali. L'ho fatta come mostra. Dopo un po' è fatta una mostra, sono andato a cercare, sfogliare per anni e anni, qui c'è anche una foto di Garau dentro, da giovane. Sono andato a sfogliare, ho cercato di dare anche un taglio politico antifascista e così via, cioè fare una cosa fatta discretamente, se voglio dire bene, discretamente, fatto una mostra, poi finché facevi una mostra ti portavano altro materiale e vabbè, allora interviamo e il prossimo anno facciamo il supplemento della mostra, poi dopo fai il libro e vabbè, facciamo il libro, no? E così di cosa in cosa è venuto fuori questo libro. Le copie sono andate a Ruba, questa che è una delle ultime copie che sono riuscito a salvarmi. Il museo è ancora lì però, eh? Il museo è ancora da fare però. Sì, vabbè, adesso anche dal punto del museo, no? Poi dopo questa mia passione per un ricordo, perché è giusto che i nostri figli sappiano qualcosa, i nostri nipoti sappiano dove siamo vissuti, Barbizan, Istorti, cioè tutti i nomi che mi vengono in mente, con l'andare degli anni non si ricorderanno più. Da dove provengono e perché sono arrivati in questa città. E quindi mi hanno invitato, ho cercato di fare queste cose. E ho fatto questo libro dopo aver fatto le mostre. Adesso, passano gli anni e un giorno mi chiedono di fare la mostra su Viarezia. Allora fai la mostra su Viarezia. Poi dopo un po' mi capita altre fotografie, facciamo la seconda mostra sulla Viarezia, ampliato ovviamente a tutto il quartiere che comprendeva il campo di concentramento, gli anni dell'immediato dopoguerra e così via. Adesso ho avuto la soddisfazione che 25 di queste fotografie mi sono state chieste dalla provincia e sono state portate al Museo di Tirolo, Castel Tirolo, no, arte contemporanea del XX secolo. Insomma, sono andato lì e c'erano 25 delle mie, tra virgolette, perché non sono mie, no? Fotografie che io ho raccolto dentro in questo libro, le hanno scelte e sono là. Ecco, per me è una soddisfazione, insomma, no? È stata una soddisfazione. E la soddisfazione poi continua, perché continua. Adesso non so, forse mi danno il via o altre fotografie per fare una mostra per la festa di Viarezia, non lo so se la farò entro quest'anno o il prossimo anno. Però c'è sempre questa volontà di fare proprio perché io penso che sia giusto, no? Sia giusto dare un qualche cosa. Marco diceva, sì, naturalmente a livello superiore, però sarebbe anche il caso di incaricare qualcuno e incominciare ad andare a casa di Bertoldi, forse a casa mia, nell'archivio del partito, tirar fuori tutte le carte e darle in mano a qualcuno e dire vedi un po' cosa riesci a mettere insieme di tutte queste carte, perché ci sono... Io ho le carte di 30 anni di consiglio comunale e tutte le volte che mi saltava su perché uno faceva un piano in più o perché la strada non era fatta come va, facevo l'interrogazione, facevamo l'interrogazione e tutte le carte sono state messe via. No? Sono state, cioè, c'era un'esperienza non indifferente, no? Che ci ha visto in tutta questa cosa. Io termino, volevo dire questo. Io, per quanto riguarda la memoria, ho cercato di fare quello in base alle mie possibilità, alle mie capacità, ho cercato di fare, guardate, mi capita uno e mi dà tutto l'archivio, cioè tutto quello che rimaneva dell'archivio, dell'Onarmo. L'Onarmo è un'opera pontificia. E così mi sono, io che in chiesa, ma non che io sono anticlericale, così comunque no, ma ho avuto questi gran rapporti, diciamo. Una cosa che mi hanno insegnato è quella di non essere anticlericale, perché mentre una volta chi veniva fuori negli anni 40-45 leggeva il Don Basilio, anticlericale, con il tempo il partito è riuscito a fare anche questo, modificare non più anticlericali, ma la gente può andare in chiesa, cioè me l'hanno insegnato al partito queste cose qua, e quindi mi sono formato anch'io in questo. Quando, però, che, quando grazie a Dio sei ateo. Grazie a Dio. No, ateo, no, perché vorrebbe dire essere già qualcosa, vorrebbe dire essere già qualcosa. Così, così. Però quando ho mandato l'archivio dell'Onarmo, ho pensato di fare la mostra sull'Onarmo. E perché, no? E lì sono tante fotografie del vescovo, dei preti, tutti i preti di Don Bosco lì, tutti lì. Ho fatto una mostra, c'era un sacco di persone, chi piangeva, chi chiamava l'amica, insomma, no? E mi hanno detto di rifarla, mi hanno chiesto a prestito una mostra, una chiesa, la chiesa di San Pio X, ha tenuto per un mese una mia mostra lì giù in cantina, perché la gente andava, per carità, io lo faccio volentieri. Adesso sto mettendo insieme... con la collaborazione di altre persone, sto mettendo insieme tutto l'elenco degli primi abitanti delle semirurali. Quando sono arrivati, quanti erano in famiglia, cosa pagavano d'affitto, cioè tutto quanto. Ho trovato uno che mi ha detto, appunto, vado in giro, trovo la gente che mi chiede, tu che ti interessi, ti interessa? Io dice, so dove andare a prenderlo. E allora, infatti, mi ha detto, l'altro giorno ho quasi finito, no? E, no? In questo contesto, ci siamo accorti che stavano buttando giù tutte le semirurali. E che non rimaneva più neanche una. Allora, guarda i piani, guarda i progetti, parlo con l'Alto Adige, parlo con Ansaloni, Giancarlo, giornalista, ne parliamo assieme, ci scambiamo le opinioni e lì abbiamo fatto un'azione in comune per salvare almeno una di queste case. No? E poi dopo una sono diventate due, una uso abitazione, adesso una invece lo faremo come museo. Dico lo faremo perché il comune si è impegnato e so che è questione di qualche mese incominceranno i lavori. La fortuna è stata che questo non sarà solo il museo delle semirurali, ma diventerà un polo museale del suo piccolo. Perché? Perché dietro, 100 metri dietro questa casa, che in base al piano di costruzione, è l'unica casa che siamo riusciti a salvare dai progetti di demolizione vicino a casa tua, sì, no? Davanti a casa tua. Davanti a casa tua. Sì, poco lì. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo accorti che lì, scavando, hanno trovato i residui del vecchio monastero che io ne sentivo parlare da molti anni, di Santa Maria in Ausa, un monastero che esisteva, infatti scavando per fare il tunnel di riscaldamento hanno trovato i resti di questo museo. E quindi la fortuna è che si farà non tanto solo il museo delle semirurali, ma diventerà un polo museale, quindi sarà possibile andare lì e vedere anche i resti di questo monastero. Ci saranno degli scavi, ci saranno le scale che vanno giù, sono dei progetti abbastanza modesti, sono abbastanza modesti questi resti. Sì, vabbè, comunque sì, devo dire che qui Bertoldi è stato lui che si è accorto di questo fatto, perché di era arrivata quando ha trovato questi sassi, ha cominciato a buttare giù. Io mi ricordo, non ero Bozzano in quel periodo, lui se n'è accorto e hanno cominciato a fare interrogazioni e sono venuti fuori i fatti, no? Praticamente l'IPEA, che è in mano, diciamo, scusate il termine, agenti di lingua tedesca, no? Stava buttando giù un monumento che è della storia della nostra provincia. Si è detto senza offese, no? No, ma per carità, perché si sono comportati come un qualsiasi costruttore che di fronte al fatto che trova qualcosa fa sparire perché ha paura che vengano bloccati i lavori. Questo è l'impegno, no? Devo dire che Bertoldi su questo è stato da fare. Io personalmente inizierò proprio nel fatto che bisogna mettere giù, e per quanto sono le mie capacità continuerò a farlo, no? Continuerò a farlo. E non sono solo, però bisogna dare atto che la fabbrica del tempo ha fatto un buon lavoro di ricerca alla zona industriale con quel libro sulla lancia, quello sulle acerie, cioè sono cose interessanti che danno la possibilità. Marco Ribetto, mi sfuggiva il nome, ma sapevo che c'era uno che è appunto uno di quelli tornati con suo padre da ragazzino dalla Germania, perché era uno degli operai che lavorava in Germania, no? E nel 45 è rientrato durante la guerra e l'ha messo al villaggio Lancia con tutta la sua famiglia, e lui ha fatto la storia di questo villaggio. E poi dopo, cioè, non sono il solo, ecco, questo ci tengo a dirlo. Io conosco quello che ho fatto io, però devo dire che parecchie persone ci stanno dando da fare, speriamo di salvare quanto è più possibile della memoria, insomma, ecco, no? Di chi è venuto qui a lavorare 50, 60, 70 anni fa, penso che sia giusto ricordarlo. Poi per il resto il movimento operaio non ha molta storia. Io adesso non sto parlando che il mio è la storia del movimento operaio, non ha molta storia, perché qui praticamente in una piccola cittadina di 15.000 abitanti nel 1920, con l'andare degli anni, con l'industrializzazione è arrivata a 100.000, adesso siamo 95-96.000. Scusate. Ecco, ringraziamo anche Giorgio, e sono le 7:30, c'è tempo per qualche domanda. Comunque la differenza tra Bolzano e Novara è che a Novara la provincia, dovendo mettere un calorifero, ha trovato 120 metri cubi di materiale documentario e li ha mandati al macero. Quindi ha mandato il macero... Tutto il mondo e paese, insomma. Sì. La biblioteca di un segretario nazionale del Partito Socialista, delle piante importantissime per la storia di Novara dell'Ottocento, tutto al macero. Pensa se... impunità totale. Ognuno ha i propri guai. Noi abbiamo un sindacato Veronieri che ha distrutto tutto l'archivio del gruppo, non solo per crearsi spazio, non hanno ancora perdonato loro la fatta. E poi anche in CGL ci sono state lunghe battaglie per riuscire a difendere la documentazione e per riuscire a creare l'archivio. Quindi ognuno di noi ha... Sì, questo è un dramma generale. Una cultura nella sinistra, non si è creata una cultura della storia, il desiderio di creare archivi fatti bene, di creare documentazione, eccetera, eccetera. È veramente una delle nostre grandi... Sai che io ho... sono andato alla... abbiamo sofferto in tanti. Sì, io ho raccolto la discarica, tutto l'archivio della Federazione del TPSI di Novara, dove c'erano dentro delle cose anche straordinarie. Sette macchinate di roba portate a casa. Luisa, diventa tardi, ricordo quello che già detto prima, cioè che presso questa biblioteca c'è il fondo della biblioteca di Andrea Mascagni e dal prossimo mese il fondo della biblioteca di Lidia Menapace. Conoscete i loro documenti al Museo Storico di Trento e alla Centro di Protezione della Donna di Roma, ma la biblioteca verrà qua. No? Comunque di aneddoti si potrebbero raccontare tanti, ad esempio qui poi dopo, ad esempio durante il fascismo, c'è ancora Cristo in sala, poi si è andato via. Ecco, negli anni, fine anni 20, ho letto sul giornale della provincia di Bolzano che l'archivio del comune di Bolzano aveva buttato al macero 150 quintali di documentazione, perché lì c'era poi anche l'esigenza di buttare al macero tutto quello che ricordava un'amministrazione che parlava un'altra lingua, insomma, no? Quindi 150 quintali negli anni 20, insomma, cose di questo tipo. Sicuramente anche il sindacato, appunto, non ha mai avuto un archivio. Io ricordo 20 anni fa con Stocchi si chiamava, sì. Ecco, così che mi facevi vedere in un angolino, in un armadietto, ecco, questo è tutto quello che c'è rimasto, insomma, no? Però in effetti mi rimangono forse più documentazioni. Qualche anno fa, in occasione del trasloco della signora Berlanda, che era la moglie di Vannuccini, sì, una delle prime donne comuniste in lista nel PC, fine degli anni 40, insomma, hanno trovato su documentazione anche giù i programmi sia a Roma, lei doveva trasferirsi, poi è morta qualche anni fa, 10-15 anni fa.